Benvenuti, benvenuti, Circuit Gang nel posto di nuovo, cortocircuito e in onda. Bello essere di nuovo qua, ci siete mancati tantissimo, ci siamo mancati tantissimo anche noi, visto che è un po' che non ci vediamo. Ci dispiace tantissimo non essere stati con voi in questi mesi, ma siamo ritornati. No, stiamo bleffando, in realtà non ce ne fregavo un cazzo, semplicemente adesso c'è ritornata voglia e siamo ritornati. L'altra ciabatta dove sei? L'altra ciabatta è là nella scarpiera. Va bene, allora poi ci vediamo in piscina. Lume cerca le ciabatte per attaccare la sua strumentazione, mentre noi ci scaldiamo ancora un po'. Partiamo lentamente, visto che è tanto che non ci vediamo, non vorremmo traumatizzarvi. Scaldiamoci un po' e ricordatevi che cortocircuito ricomincia, non settimanalmente purtroppo, perché gli impegni sono sempre quelli e non possiamo esserci sempre. Però cercheremo di essere con voi almeno una volta al mese per portarvi tanta, tanta, tanta e soprattutto bella musica elettronica. State sintonizzati che ci stiamo scaldando. Thank you. Cortocircuito, un programma presentato da Gutalax. C'è una persona speciale che proprio non riesci a mandare a cagare? Regalagli Gutalax. Gutalax. Sei un creativo? Un creativo? Hai il blocco dell'artista? Prova con Gutalax. Bye.

Teniamo a salutare caldamente Lorenzo Picaz, perché purtroppo ieri è caduto in motorino e si è fatto la bibi alla clavicola, e quindi gli auguriamo una prontissima e tranquilla e serena guarigione. Ti vogliamo bello, forte e con più clavicole di prima. Mi raccomando, guarisci presto. Radio ZM ti aspetta. Thank you. Back and twitch and date it. And it's in it, let's rename it. Turn it, leave it. Sentiamo di ringraziare tantissimo, profondamente, dal profondo del cuore, l'Hip Hop Lab, che ancora una volta ci salva con la strumentazione di Traktor che noi siamo riusciti a non far funzionare bene. E invece loro sì. We'll be right back. Siamo pronti per partire finalmente, dopo immense bestemmie, siamo riusciti a rompere un cavetto dentro. Vabbè, ma che cazzo ve lo ricordiamo, basta dire che siamo dei rincoglioniti e che l'Hip Hop Lab ci salva sempre. Grazie Hip Hop Lab, grazie Zam. Hip Hop Lab, siete dei grandi, veramente. Già l'altra volta l'USB, stavolta il sindacato. Ah, ok. Questa volta la scheda, cioè veramente. Veramente, ci salvano sempre. Consigli per gli acquisti: se avete già acquistato e consumato completamente la vostra boccia di Gutalax, potete acquistare l'Hip Hop Lab. Ed ora vi sentiremo un bellissimo DJ set di Mr. Sbume. Con una roba di bombe che parte chum bang chum bang chum bang chum bang chum bang bang bang bang chum bang bang bang bang chum chum bang chum bang chum bang chum bang chum bang bang bang bang chum bang bang bang bang chum. Poi la batteria alla fine sempre con tante bombe che vi dico in sequenza al bianco rosso. Chum bang chum bang chum bang chum bang chum bang bang bang bang chum bang bang bang bang chum chum bang chum bang chum bang chum bang chum bang bang bang bang chum bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Tre palle grosse dietro che fanno le fermate, chum boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Poi parto le bombe a due in tre, boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Dopo alla fine facciamo la scarica di 30-40 bambù. Poi tre palle grosse dietro che fanno 4-5 colpi forti e poi boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. cazzo viene che fanno. We'll be right back. We'll be right back. cortocircuito. We'll be right back. We'll be right back.

c'è da dire. No, difesa di sbume, c'è da dire. Circuito. Attempts are futile. Let's get out of here. Warned you. Die. is. I walk through the valley of the shadow of death is. Top floor, if you alone, it leaves you breathless. Try to catch me. Kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, and I check the method. Yeah, and I check the method. Questions, harassed and arrested. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast. mix. Diebenart und Denart. We'll be right back. sleeper. I'll be beaming you'll be the sleeper. When I attack, that's no defense. My controller, my controller. Georgia Brown, I'll have to go deeper. I'll be beaming you'll be the sleeper. When I attack, that's no defense. My controller, my controller. Georgia Brown, I'll have to go deeper. I'll be beaming you'll be the sleeper. When I attack, that's no defense. My controller, my controller. Georgia Brown, I'll have to go deeper. I'll be beaming you'll be the sleeper. My controller, my controller, my controller, my controller. Georgia Brown, I'll have to go deeper. Buonasera, siete in onda, siamo in onda, trasmettiamo Radio ZM, continuate a sentire Cortocircuito. Thank you. Show, presentato da Cutala. We'll be right back. Sale français. Sale français. Cache-toi.

Radio Zeta M. Questo è Cortocircuito. That is what is at stake. our ability to live on planet Earth. Atterrati su Radio ZM, questo è Cortocircuito, tutto per stasera, andiamo a casa a dormire e vi lasciamo a cercare la festa da qualche altra parte.